Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. In questa mattina di fine maggio, che sembra novembre, vorrei con voi fare un punto sull'ultimo weekend di paura che tutti abbiamo passato. Paura reale, concretamente motivata e giustificata per molti di noi, paura riflessa, paura condivisa, paura vissuta emotivamente come un'emozione che vale la pena di vivere assieme ad altre persone. Cosa è accaduto? Ma in 24 ore sono accadute tante cose, ci sono stati tanti motivi di riflessione. È venuto fuori ed emerso un senso lontano che affonda le radici nella nostra storia recente, di abbandono, di senso di disperazione. Sono riemersi sensi civili, sono riemerse antiche e nuove preoccupazioni. Ma tutto accadde, iniziò ad accadere un sabato mattina, che era una giornata normale, almeno qua a Roma, normalmente assolata. Non in tutte le città d'Italia si va a scuola, ma in una scuola particolare di Brindisi si andava a scuola e è accaduto qualcosa. E ha visto questa ragazza per terra e poi l'altra che si è alzata e gridava Melissa, Melissa, Melissa, Melissa, perché evidentemente aveva capito. Una ragazza è stata uccisa in un attentato davanti a una scuola. Proprio nel momento in cui sarebbe dovuta passare per la città di Brindisi, la carovana della legalità, il movimento che si sta snodando in Italia per ricordare il ventennale della strage di Capaci, e casualmente, ma nemmeno tanto casualmente, perlomeno nel primo associarsi di idee, la scuola era dedicata alla Morvillo Falcone, la coppia appunto sterminata, uccisa, massacrata nella strage di Capaci. Immediatamente è nata una improvvisa e devo dire inaspettata reazione di solidarietà in Italia. Da lì al pomeriggio molte piazze d'Italia sono riempite di persone e verso sera a Milano, come a Palermo, come a Roma, la gente era in piazza con una candela accesa per protestare, manifestare, dare visibilità alla loro presenza contro la mafia. Strano, singolare, erano anni che non succedeva quello. Ci voleva una tentata strage davanti a una scuola, ci voleva una ragazza morta per questo accadesse. Uomo su 50 anni, giacca scura, camicia bianca, pantaloni chiari, scarpe da ginnastica. Il killer di Brindisi è forse immortalato in questo fotogramma, estrapolato dal filmato delle telecamere a circuito chiuso, che hanno registrato gli istanti dell'attentato alla scuola Morvillo Falcone, che è costato la vita a Melissa Bassi. Nel video... Abbiamo veramente il senso, la sensazione dell'epoca in cui viviamo. Viviamo l'epoca in cui nessuno si nasconde, in cui tutto è visibile, in cui l'ipervisibilità è il segno dell'appartenenza al nostro secolo, alla contemporaneità che stiamo vivendo. Quindi improvvisamente cadono tutti i teoremi, cadono tutti i concetti che erano stati fatti, tutte le supposizioni, improvvisamente tutti i programmi televisivi che avevano ospitato persone, che avevano immediatamente riportato la memoria, ho letto di tutto, si riparlava di strage di Stato, si riparlava di strategia della tensione, si riparlava improvvisamente di una vigliacca e violenta ripresa di possesso dei territori da parte della malavita organizzata. Beh, tutto questo sfuma improvvisamente. Il cui lato positivo poi di questa cosa è stata la reazione civile, le persone che hanno dato segno che dopo 20 anni ancora si ricordano di qualcosa di terribile che è accaduto nella nostra storia, ma se lo sarebbero ricordati comunque se non fosse morta questa ragazza. Ma in presente cambia tutto, cambia lo scenario, non si tratta più di organizzazione mafiosa, ma si tratta di una persona singola, isolata, a cui non è stato dato altro che un volto sfocato. Comincio nella serata di ieri a uscire le prime foto da un chiosco di un bar, una telecamera, una delle tante telecamere che impediscono il nascondimento di ogni nostra azione, ha ripreso un signore in giacca, pantaloni, scarpe da vela, e tutti improvvisamente vedono in lui un probabile assassino seriale, un maniaco, un tecnologico patologico arrabbiato, un patologico che non appartiene probabilmente alle nostre tradizioni. Immediatamente si rifanno tutti gli echi di tutte le improvvise stragi nelle grandi scuole: c'è sempre un malato, un maniaco, un criminale, un compulsivo che comprime qualcosa dentro di sé fino a uscire fuori. Può essere stato lui, non sarà lui. Ci fermiamo perché poi diventano chiacchiere da bar, diventano supposizioni, diventano idee. Questa mattina leggo che in realtà forse un senso profondo può essere dato a questo. Gianni Riotta scrive sulla stampa che su Twitter il mondo della moda si è mobilitato nei confronti di queste ragazze. Non dimentichiamo, non era una scuola particolare, era una scuola, che un istituto tecnico che preparava e formava le ragazze in servizi sociali, moda e turismo. Quindi queste ragazze in sé ambivano di essere quello che oggi viene deprecato come il punto più basso delle aspirazioni di una ragazza: far parte del mondo della moda. Il mondo della moda si è mobilitato, come dice Riotta, su Twitter, dalla Biagiotti a Trussardi, a Armani, alla Sozzani, a Vera Montanare, tutti i grandi nomi della moda italiana improvvisamente hanno detto: faranno qualcosa per queste ragazze che vogliono entrare nel mondo della moda. E questo è forse un legame con la persona che ha fatto scoppiare quelle bombole di gas davanti a quella scuola. I nostri genitori ci mandano a scuola con il pensiero, con la sicurezza che la scuola ci dovrebbe aiutare, o comunque siamo in un contesto sicuro, invece ci troviamo proprio dentro la scuola in pericolo. Io non ho parole. Quando sono entrata a scuola ho sentito l'agitazione, ho sentito la paura, un pericolo che non avevo mai sentito, perché... Il ministro Profumo questa mattina ha fatto pervenire un suo pensiero a tutti gli studenti d'Italia: non abbiate paura, andate a scuola, tutto è come prima, non c'è pericolo. È vero, sì, oggi leggo sul giornale che in realtà la scuola, che dovrebbe essere il luogo sicuro per eccellenza, non lo è poi tanto. Oggi siamo tutti emotivamente trascinati sulla vicenda di Melissa Bassi, e come spesso facciamo noi all'italiana, l'aspetto emotivo tracima anche da quella che è la crudezza, la realtà del fatto, i pupazzetti di peluche, le bamboline, e tutto lo strascico di cui oggi si sentirà parlare, di questa povera e disgraziata ragazza che è stata vittima, ancora non sappiamo di chi o di cosa, ma siamo portati a pensare che sia una sola mente, una mente staccata dalla realtà, dalla società, dall'organizzazione, non abbia un disegno che il suo disegno individuale. Per chi suona la campanella, viene scritto sul giornale, viene ricordato che la scuola in realtà è la scuola italiana, ha momenti precedenti di non grande attenzione alla sicurezza dei ragazzi. La strage di Casalecchio il 6 dicembre 1990, un aereo militare in volo di addestramento va in avaria e si schianta contro la scuola di Casalecchio di Reno, 12 studenti morti e 80 feriti. A San Giuliano l'11:33 del 31 ottobre 2002, una scossa e terremoto fa crollare la scuola di San Giuliano in Puglia, muoiono 27 bambini e una maestra. È ancora aperta la polemica rispetto alla sicurezza di questa scuola. Ma andiamo avanti. Questo sarebbe l'unico, non è l'unico episodio, da solo già basterebbe a segnare l'emotività nostra e di chi mi ascolta per varie settimane. No, è accaduto esattamente a distanza di poco meno di una giornata dall'episodio che abbiamo raccontato, un altro episodio che ha nulla a che fare con la volontà umana, qualcosa che è legato alla forza della natura, e quando si scatena, se si scatena improvvisamente fa sentire tutta la sua forza e tutta la nostra impotenza nel contenerla. Quasi tutti gli abitanti di San Felice sul Panaro hanno trascorso la notte o nelle tende allestite dalla Protezione Civile di Trento nella piazza del Mercato, che si trova dall'altra parte della piazza della Rocca del 1400, che è poi il simbolo del paese e oggi il simbolo del terremoto. 800240024, mentre continuo a raccontarvi, a farvi la mia sintesi, mi piacerebbe sentire come avete passato voi questo weekend di paura. Qual è stato il vostro punto di vista? Eravate direttamente interessati, quindi vi muovevate nel territorio del Brindisino, quindi vi siete sentiti toccati nella vostra carne dall'attentato di fronte alla scuola Morvillo Falcone. Eravate nell'area in cui la terra ha tremato alle 4:05 domenica mattina, l'epicentro è stato Modena, Ferrara, ma tutta l'Emilia è stata toccata, è stato il sesto grado della scala Richter, quindi non è assolutamente un terremoto da sottovalutare. Ma quello che tutti abbiamo pensato quando domenica mattina siamo svegliati, come? Siamo andati a letto pensando alle mobilitazioni di piazza, alla mafia che ha rialzato la testa, alle povere ragazze dilaniate dalle bombole del gas, e ci svegliamo con la notizia di 7 morti in un terremoto, in una zona che dormiva tranquilla tutte le sue notti a Generazioni, perché sapeva che non sarebbe stata zona sismica. Improvvisamente va riscritta anche la mappa sismica. Improvvisamente sappiamo questa mattina, sentendo le notizie dei giornali di Radio 24, di tutto lo strascico che ci sarà rispetto a questo terremoto. Non è indifferente, un grande patrimonio storico artistico distrutto, irreversibile, i depositi con le forme di parmigiano reggiano che rischieranno di andare a male, e l'industria, la fabbrica. Molti di quei 7 morti erano operai che facevano le loro nottate in fabbrica e sono morti. E nello stesso tempo, mentre stiamo aspettando ancora notizie del terremoto dell'Aquila, ve lo dice una persona che ne è coinvolto personalmente, ancora molti di noi aspettano di sapere se possono mettere le mani nella loro casa lievemente danneggiata, già si pone il problema di un altro terremoto, degli aiuti, dei tagli ci saranno stati, dell'impossibilità dello Stato di intervenire sempre in occasioni di calamità naturali. E questo non vi basta? 800240024. C'è un'ultima nota accessiva, accessoria, ma secondo me anche non indispensabile, non indifferente da considerare. Toda una península europea se iba al mar cobrando la muerte de 7 millones de personas en Italia. Estimo que solo el 20% de las personas sobrevivirán al cataclismo que se producirá en los próximos meses, y a medida que nos acerquemos al día 20 de mayo de 2012, verán antes de que se produjera el sismo de Japón las Pléyades estaban entrando. Non poteva mancare nella seconda metà del pomeriggio di ieri l'aspetto funesto e profetico. Naturalmente siamo ancora nell'anno della profezia Maya, naturalmente qualcuno ha tirato fuori il fatto che ci sarebbe stato questa notte una sorta di eclissi anulare, sarebbe apparso un anello di fuoco visibile in molti paesi del mondo, e ci sarebbe stato un annuncio profetico di terribile calamità. Questo signore, questo cialtrone, avete sentito parlare, una sorta di santone, non so di quale paese della Latino America, Felipe Illuminati, che qualcuno ieri ha messo in rete, ha diffuso facendo un rozzo taglio, come ha fatto capire questa mattina il professor Chiappini, per collocare le sue profezie proprio nel giorno 20 maggio, in cui sarebbe stato un terrificante terremoto in Italia e sarebbero morte migliaia di persone. Qualcuno l'ha presa tanto sul serio che ieri a Sky TG24 abbiamo sentito Red Ronnie che dava credito a questa notizia. Perché? Perché girava su Twitter e quindi è fondamentalmente certa la sua fonte. Io sono a 5 km da San D'Agostino, in linea d'aria, sono pieve di 100, io sono collegato su Twitter e quindi sto vedendo come questa notizia stia facendo il giro del mondo, ma soprattutto come arrivino cose strane. Cioè, ad esempio, c'è un articolo che io sto segnalando di 2 giorni fa che diceva che il 20 maggio i Maya prevedevano un allineamento che avrebbe provocato terremoto, e questo ha molto... molta sensazione nel mondo. Questo è l'aspetto meraviglioso, innovativo dell'interconnessione tra le genti, del fatto che attraverso Twitter, attraverso Facebook, attraverso le nostre protesi individuali possiamo trasmettere emozioni. Quante emozioni sono state trasmesse in questa fine settimana? Quanti sono sentiti aiutati, corroborati dal fatto che qualcuno su Twitter desse indicazioni, facesse, segnalasse la propria disponibilità a aiutare? E quanti invece hanno alimentato la loro paura di questa fine settimana leggendo le mostruose teorie e profezie Maya? 800240024. Cosa possiamo dire di certezza rispetto a questi 2 giorni? Angelo Iannone, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Angelo Iannone, l'abbiamo sentito proprio pochi giorni fa per presentare il suo libro Eroi Silenziosi, dedicato a tutte le persone che hanno operativamente dato un contributo importante alla lotta alla mafia, e sono quelle meno citate dalle fonti ufficiali. Oggi lo richiamiamo per 2 ragioni, perché Angelo Iannone innanzitutto è pugliese e conosce bene quella zona, e poi perché è stato tenente colonnello dei ROS, anche se oggi si occupa di consulenza e di didattica nelle università rispetto alla sua esperienza, però ha dato un contributo reale, concreto, a operazioni mafia molto importanti, a operazioni di narcotraffico proprio nella zona della Puglia. Angelo, quando tu hai avuto la notizia di ciò che è accaduto a Taranto, che pensiero ti è passato per la testa, alla luce proprio della tua esperienza? Ma i pensieri che mi sono venuti alla mente sono, sono riferiti a tutte le categorie di bombaroli italiani, ovviamente. Li ho ripercorsi un po' rapidamente tutti senza fare ipotesi ben precise, perché per mia forma mentis faccio fatica a fare ipotesi se non basate su elementi oggettivi di cui ovviamente non posso disporre. E quindi mi sono venuti in mente gli attentati, ovviamente, di Cosa Nostra, o meglio di Cosa Nostra da Cosa Nostra, cioè dei corleonesi. Mi sono venuti in mente i pacchi bomb dei gruppi anarchico insurrezionalisti, mi sono venuti in mente i bombaroli della destra eversiva, e infine soprattutto mi è venuto in mente una bomber, il serial bombarolo rimasto ancora oggi non identificato. Ecco Angelo, tu che conosci un po' anche, diciamo, la struttura della malavita organizzata, oggi separato molto sui giornali di Sacra Corona Unita, locale, rispetto a quella zona, rispetto alle fattispecie proprio di quel territorio, hai subito da escluso a priori l'idea che ci potesse essere una partecipazione rispetto a questo atto? Devo dire distinto, l'istinto ovviamente basato sulla mia esperienza investigativa, distinto sì. L'ho esclusa per una serie di ragioni. Primo perché nella storia della criminalità di tipo mafioso, in primo luogo, solo i corleonesi si sono spinti, diciamo così, tanto da cagionare anche attraverso attentati perlomeno da non farsi scrupoli di cagionare in alcuni attentati anche la morte di minori. Pensiamo per esempio all'attentato al giudice Carlo Palermo, forse da molti dimenticato, che il 2 aprile dell'85 provoca la morte di due bambini gemelli e della loro mamma. I bambini avevano soltanto 6 anni. Ecco Angelo, questo per dare un quadro a tutti i mafiologi da bar che subito hanno detto: ah, la mafia mai sarà spinta tanto in là. No, ci si è spinta, hai voglia, spesso, come dici tu, veramente. Fermo restando con una premessa: a volte basarsi solo sulla storia passata può portare anche a prendere delle cantonate, perché ogni storia ha un inizio e quindi ha un primo episodio da cui nasce. Quindi però, come si evolve la società, si evolve anche il lato oscuro della società, certo, è chiaro? Certo. È evidente che, sempre ragionando in termini di ipotesi, chiaramente gli accostamenti simbolici al nome della scuola, alla prossimità della data dell'anniversario dell'attentato di Capaci e così via, poteva in qualche maniera, così in maniera molto istintiva, portare a pensare ad un segnale proveniente magari anche dagli stessi ambienti dei corleonesi, che attraverso una ramificazione nel territorio volessero mandare un segnale prendendo una scuola simbolo. Sì, la moglie di Rina, che sarebbe residente in un paese accanto, ma mi sembra che è stato già scritto e detto, ma dal tuo punto di vista non sono queste circostanze rilevanti, no, mi pare. No, devo dire che ciò che invece, diciamo, ovviamente sono stati esclusi da una mia analisi, da lettura di giornali. Tu l'hai anche intercettata la moglie di Rina ai tuoi tempi? Non proprio lei, di riflesso, attraverso le intercettazioni delle sorelle della moglie di Rina, appunto le sorelle Bagarella, e quindi ne veniva fuori un'immagine di una donna fondamentalmente sofferente, sacrificata a trascorrere la latitanza con il marito, e una donna peraltro abbastanza colta, a lei si deve l'istruzione dei suoi figli, insomma, che sono vissuti durante la latitanza, sono nati in latitanza. Però, ripeto, per quanto riguarda l'episodio di Brindisi, ovviamente guardando così in maniera a raggiera i bombaroli italiani, sono ovviamente passati alla mente anche in rassegna anche i gruppi anarchico-insurrezionalisti, che sono stati esclusi per una ragione, almeno da una mia lettura iniziale, semplicemente perché è vero che anche loro hanno fatto ricorso a bombe, ma o attacchi bomba, ma loro si rivolgono categoricamente a obiettivi simbolici e istituzionali, o che siano simbolici, diciamo così, del capitalismo italiano. Vedasi tra l'altro l'ultimo episodio in cui non hanno operato con una bomba, quello ai danni dell'amministratore delegato di Ansaldo, ma con un attentato, diciamo con una gambizzazione, e in ogni caso le indagini sembrano propendere nella direzione dei gruppi anarchico-insurrezionali. Ci fermiamo solo un secondo, Angelo, diamo la linea all'informazione della borsa, 800240024, a poco darò voce anche agli ascoltatori che stanno dando seguito alla richiesta che ho fatto di raccontarci e riempirci con il loro tassello individuale quello che è il quadro generale di questo weekend di paura. Melog, la realtà condivisa. Stamattina vi ho chiesto di partecipare, se possibile, a questa carrellata su l'ultima fine settimana. È stata una fine settimana molto particolare, molto singolare. Lo facciamo in questa mattina di fine maggio, in cui anche il tempo sembra darci la cupezza necessaria a valutare e a elaborare quello che è accaduto. Io ho un grande rispetto per il pubblico che mi ascolta e che partecipa, ho rispetto che sono interessato, che è il mio vero strumento di analisi, la mia vera fonte primaria, che poi uso, della quale a volte abuso, della quale faccio uso anche strumentale. Questo fa parte del mestiere. Però leggo dei messaggi attraverso appunto il canale SMS che mi fanno un po' riflettere e pensare, e mi dà anche questo senso delle persone che mi ascoltano, di come è composta l'umanità che ci circonda. Cuoche tu, Nicoletti, siamo veramente saturi di cialtronerie. Ecco, cosa c'è stato di cialtrone in questi ultimi 40 minuti? Se non il tentativo di dare corpo alle paure, alle ansie, non di dare certezze, non la pretesa di dare soluzioni. Nessuno vuol dare soluzioni. Riflettiamo come riflettereste voi nello scompartimento del vostro vagone di pendolari, nell'abitacolo della vostra automobile in una coda, in mezzo alla vostra famiglia, con i vostri amici. Questo è il senso della radio. Le bombe si mettono al Quirinale e al Parlamento, no alle scuole. Ecco, questo ha parlato il genio della mattinata. In rete TV con le news ossessive non se ne può più, c'è spazio solo per i ciarlatani. A chi vorreste dare spazio in questa mattina? A qualcuno con la bacchetta magica? A un veggente, a un profeta, a un mago che scende, vi dà la soluzione di tutto, attraverso un cammino faticoso, fatto anche di tentativi a volte maldestri, a volte improvvisati, di dare senso comunque al disagio comune? Questo è il lavoro che facciamo noi. Se l'autore della bomba di Brindisi fosse un balordo singolo che ha arrabbiato con il mondo intero, mi chiedo quale scopo abbia raggiunto con la morte di Melissa. Beh, un balordo non ha scopo nella vita se non quello di confermare ogni giorno, ogni momento, il suo essere balordo. Giuseppina, buongiorno. Sì, buongiorno, chiamo da Modena. Allora, terremotata. Non come è avvenuto chiaramente nella provincia. Lambita dal terremoto. Sì, lambita in maniera pesante, perché siamo stati svegliati alle 4, le 4.04, un po' dopo le 4, da una fortissima scossa che ci ha proprio sconvolti, insomma. E chiaramente abbiamo vissuto queste scosse durante tutta la notte e continuiamo a viverle, perché c'è il cosiddetto sciame sismico che ancora si fa sentire, anche stamattina si è sentito. Benvenuti nel mondo dei terremotati, così avviene. Sì, purtroppo sì. Questo ho detto io alla vostra collega, che il sabato era iniziato per me alle 18, quando ho partecipato a un raduno, a un gruppo di persone, ci siamo ritrovati lì sotto la ghirlandina per esprimere la nostra solidarietà sicuramente alla famiglia della ragazza trucidata e per dire no a quello che era avvenuto, perché è impossibile che i nostri ragazzi che escono la mattina per andare a scuola non facciano poi ritorno a casa. Quindi, Giuseppina, lei è l'esempio più concreto di quello che cercavo di mettere insieme questa mattina. Una sorta di passaggio di testimone da una paura all'altra. Lei è fra le persone che hanno manifestato per l'episodio di Brindisi e fra le persone che sono svegliate la mattina sotto le scosse di terremoto. Quindi, mettendo insieme queste due sensazioni, questi due stati d'animo, qual è la sintesi che ne esce? dal suo punto di vista, che è particolare rispetto a quelli che hanno semplicemente mandato sms dal loro divanetto guardando la televisione. Sicuramente che nel caso della ragazza è avvenuto qualcosa che si può anche evitare. Nel secondo caso è la natura, che sappiamo bene che ha questi movimenti periodici, non si può in un certo senso evitare, tranne che nella costruzione di edifici antisismici e poi prendere delle precauzioni subito dopo che è avvenuto l'evento sismico. Grazie Giuseppina. Bruna De Marchi, buongiorno. Buongiorno. Bruna De Marchi, sociologa, ha diretto un master in programma Emergenza di Massa all'Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, attualmente collabora con il Politecnico di Milano proprio su questi temi. Abbiamo chiamata più volte, sempre in occasione di terremoti o disastri naturali, con la sintesi della sua qualifica che è sociologa dei disastri. Ecco, questa mattina qual è il suo punto di vista, Bruna De Marchi, di fronte a una fetta d'Italia che è perplesso, che dice: ma noi non eravamo zona sismica, come mai anche da noi cadono le chiese, cadono i monumenti e succede questa cosa qua? Ecco, come si elabora questo tipo di sensazione? Ma io direi che tutto sommato l'Italia, come sappiamo, è un paese che è tutto sismico. Ovviamente ci sono delle zone che sono più esposte, altre meno, ma direi che ci sono due considerazioni da fare. Uno, che sono i calcoli degli esperti, che possono essere calcoli sostanzialmente probabilistici basati su una serie di eventi precedenti. Infatti sappiamo che le mappe del rischio sismico vengono perennemente aggiornate, se non sbaglio l'ultima volta nel 2003. E l'altra è la sensazione delle persone che, anche se vivono in zona sismica, tutto sommato tendono a non avere una forte consapevolezza del rischio, del pericolo. Come è accaduto in Abruzzo, ne abbiamo parlato anche per esperienza personale. Come è accaduto in Abruzzo, sapevamo di avere sotto il sedere qualcosa che poteva dare comunque dei segni, ma nessuno si è mai preoccupato, anzi hanno costruito case, scuole, edifici senza nessun tipo di scrupolo. Esattamente, questa è l'eterna domanda, no? Perché anche sapendo non si attua e non si fa. Allora, il discorso ci porterebbe molto lontano, però pensando alle persone singole, diciamo che c'è molto spesso una rimozione, perché uno non può vivere con la costante paura di essere esposto non solo a un terremoto ma a un attentato, a qualunque cosa. Però c'è una distinzione da fare fra la paura, che non può essere una emozione che ci accompagna costantemente, invece un atteggiamento di precauzione, di prevenzione, che invece sì, potrebbe essere attuato attraverso delle azioni, diciamo così, precauzionali. Bruna De Marchi, somiglia un pochino a chi fuma, nonostante sul pacchetto sigarette ci sia un teschio dire: se fumi muori. Esattamente, infatti questa è un'analogia che mi viene, no? Dal punto di vista personale noi pensiamo che tutti, non succederà mai a noi, perché proprio qui, perché proprio a me, no? E in effetti è anche un atteggiamento comprensibile, perché il dato, per esempio lei citava il cancro da fumo, è un dato epidemiologico, statistico, quindi perché proprio a me? Alla fine c'è gente che fuma e non gli è mai successo. Cambia il discorso quando invece parliamo delle istituzioni e delle autorità che sono preposte a fare un discorso di preparazione di emergenza e così via, perché lì, ecco, troppo spesso osserviamo, e non solo in Italia, un analogo atteggiamento: ma proprio qui, ma non succederà qui, ma perché dobbiamo preoccuparci di questo? Cosa a cui però si aggiungono dei vincoli veri, insomma, perché ci sono poi discorsi di bilancio, discorsi di quello che è possibile fare, ma al di là da questi vincoli strutturali veri ed economici c'è anche proprio un atteggiamento che tende così a rimuovere, no, l'idea del pericolo. È interessante quello che diceva il ministro Profumo, perché tutto come prima. Allora, tutto come prima vuol dire tutta una normalità che è fatta di niente succede, ma tutto può succedere in ogni momento. Fermiamoci solo un secondo, Bruna De Marchi. Giuseppe Neri, buongiorno, neuropsichiatra, presidente Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Siamo al punto. L'elaborazione o la contenzione o i limiti ufficiali che vengono dati alla paura generalizzata. Si è parlato di paura nel caso del possibile attentatore che si è arrabbiato col mondo, e queste persone che sono già in tendopoli, una zona che sembrava tranquilla, già cominciano a chiedersi: ma come, fino all'altro ieri abbiamo letto sui giornali che lo Stato non provvederà più in caso di sismi o fenomeni naturali, noi cosa facciamo, noi che siamo stati il motore economico del paese? Ecco, come si ragiona con questa paura quando si hanno le responsabilità anche delle paure collettive? Lascerei l'ambito delle popolazioni colpite dal terremoto alle osservazioni dei sociologi e di chi ha maggiore competenza specifica. Sulla storia del matto di Brindisi, considerato come tale, mi viene in mente quello che scriveva Foucault nella sua storia della follia nell'età classica. È molto rassicurante, è molto comodo, è molto utile che ci sia il matto che ci risolve il problema, perché lui costituisce la nostra salvezza, è qualcosa di altro da noi, è una specie di alieno che piomba nella nostra realtà e come il Deus Ex Machina risponde a tutte le nostre domande. Prenderei con estrema cautela questa ipotesi, perché poi quello vestito da matto può essere anche un matto utile, un docile strumento manovrato da qualcuno. Starei piuttosto cauto, anche perché i professionisti del settore, che probabilmente non sono esattamente dei parvenu di questi campi, penso a Pietro Grasso o al procuratore antimafia di Lecce Cataldo Motta, hanno sottolineato come capire perché e dove accade quella cosa in quel giorno, con lo specifico documentato intento di ammazzare persone. Il Luna Bomber de Noantri lo lascerei un pochino da parte, quello del Nord-Est nascondeva delle cose molto piccole per incastrare il singolo, non metteva tre bombole a scoppiare all'ingresso di una scuola, e nemmeno l'Oklahoma Bomber degli Stati Uniti, il veterano che si sentiva in guerra con la Federal Administration, e un'altra tipologia. Io penso che quando tu ed io avevamo 20 anni, ed era il maggio del 74, c'era un altro cestino di rifiuti che stava in una piazza che si chiamava Della Loggia a Brescia, che saltò e mandò all'altro mondo parecchie persone. Non voglio fare paralleli tanto al chilo, voglio pensare che bisogna essere molto attenti quando si decide di ammazzare della gente con degli strumenti estremamente accurati e idonei, e che solo per una fortuita circostanza hanno ammazzato fino ad ora soltanto una ragazza. Io penso, Beppe, il matto di turno è troppo comodo. Fermiamoci solo un secondo, devo dare la linea all'informazione del traffico, poi l'ultima parte della missione la dedicherò appunto ai miei tre ospiti, che avranno modo di rimbalzarsi i loro pareri e le loro esperienze. Ma la differenza tra gli attentati che citava Beppe Neri, quelli dei cosiddetti anni di piombo, e quelli di oggi, sembra che sia proprio legata alla tecnologia. Se ci fosse stata a Piazza della Loggia una telecamera, ne avremmo saputo qualcosa di più. E avere oggi le telecamere è un facilissimo strumento di dare subito almeno l'immagine di un colpevole alla fame di giustizia o di verità che hanno appunto le folle. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Analisi, ipotesi, ma ipotesi non con la pretesa di essere certezze, semplicemente pensieri tra persone che, a cui riconosco il valore del loro pensiero su questo ultimo weekend. Roberto, buongiorno. Pronto, buongiorno, mi sente? Sì? Sì, certo. Perfetto, innanzitutto volevo farle anch'io i complimenti, lei l'ha fatto agli ascoltatori, io vorrei rigirare. Vabbè, adesso non ci siamo a perdere tempo in complimenti, andiamo avanti. Perfetto, niente, io chiamo da Ferrara, sono stato anch'io testimone di questa violenta scossa di terremoto, anch'io ero in piazza sabato pomeriggio per manifestare contro queste bombe, solidarietà a tutti gli studenti, eccetera. Niente, le mie riflessioni innanzitutto riguardo al terremoto vanno al crollo dei capannoni. Ritengo assurdo che nei capannoni dove la gente debba lavorare non ci siano delle misure atte alla sismica. I capannoni sono stati, penso, le prime strutture che sono crollate in questo terremoto, forse senza preavviso, se no avrebbero avuto tempo gli operai di uscire. Trovo questa cosa veramente agghiacciante. In un certo senso, da tempo penso che ci vogliono in un certo senso i nuovi servi del lavoro. È quello che diceva, vede, quello che diceva la sociologa Bruna De Marchi poc'anzi. In realtà va allargato il concetto di rischio e di pericolo. Non esistono più zone, non sono mai esistite, o perlomeno nella cautela massima che oggi la modernità dà alla dignità del lavoro, alla vita umana, alla sicurezza sul lavoro, bisogna cominciare a considerare che nel nostro paese in realtà è tutto a rischio sismico, e quindi la costruzione antisismica dovrebbe essere un principio applicabile ovunque. Non ci sono zone più o meno a rischio. Ma torniamo un attimo alla dialettica sollevata da Beppe Neri. Beppe Neri ha riassunto l'altro punto di vista rispetto a quello, diciamo, ufficiale, che molte volte l'emotività generale, l'emotività pubblica ha bisogno di bersagli facili, ha bisogno di soluzioni che tranquillizzano. Angelo Iannone, cosa ne pensi? Ma io ripeto, la mia posizione è quella che ho espresso in premessa. Io ritengo che quando si svolgono indagini bisogna prima di tutto stare in silenzio. Ecco, allora come ti spieghi, scusami? Affidarsi agli elementi che si acquisiscono, non precipitare subito le conclusioni. Infatti bene ha fatto per esempio proprio il dottor Cataldo Motta, che io conosco personalmente e stimo perché ho avuto modo anche di lavorare con lui, a rifiutarsi di formulare ipotesi, di dare risposte ai giornalisti. Ma come ti spieghi, scusami Angelo, una foto che è già sulle prime pagine di tutti i giornali, già da ieri sera girava in tutti i siti internet, che è un'ipotesi, non si vede nulla, non si capisce nulla, ma già viene identificato, già fanno supposizioni. Questa mattina vedo tutti, suppongo, dalla scarpa, da come è vestito, chi sia. L'esperienza mi porta a dire che non c'è cosa peggiore che svolgere delle indagini sotto la pressione mediatica, quindi si rischiano pericolosissime fughe di notizie, elementi che dovevano rimanere riservati, che invece vengono rilasciati ai media. Ripeto, si potrà anche arrivare probabilmente all'identificazione dell'autore materiale, e soltanto da quel momento in avanti probabilmente si aggiungeranno elementi che consentiranno di percorrere una ipotesi piuttosto che un'altra. Ma da un punto di vista investigativo, per il resto possiamo semplicemente andare, come io ho cercato di fare, a ricordi del passato, cioè dell'ampia gamma a disposizione da parte della nostra storia recente. Ti chiedevo, Angelo, da un punto di vista investigativo, è dannoso che già oggi tutti abbiano un'idea, errata o giusta che sia, di un probabile autore, se questa è veramente la foto di una persona che potrebbe averci a che fare con questo episodio? Ma io voglio sperare che questo sia invece il risultato di un voluto depistaggio informativo. A volte si fa anche quello durante le indagini, perché se invece questo è veramente il fotogramma saliente per le indagini, credo che sia stato commesso un errore di riservatezza non di poco conto. Beppe Neri, visto che hai sollevato te il problema, nell'ipotesi seconda proposta da Iannone, che sia un depistaggio investigativo, conformerebbe ancora di più l'idea che proprio in un depistaggio investigativo, informativo, viene dato qualcosa che la gente vuole in questo momento, la foto, il profilo sfumato di un colpevole. Gianluca, sulla radio per cui tu lavori, ho sentito stamane, andando io al lavoro, un dialogo fra due importanti magistrati, e ho riflettuto sul fatto che uno degli errori che io almeno in passato ho spesso commesso è stato quello di sopravvalutare le capacità intellettive dei miei interlocutori. Io spero che abbia ragione Iannone, ma non escludo invece che ci sia una situazione in cui qualcuno, forse sotto la pressione dei media, non dico abbia sbattuto un mostro in prima pagina, ma mi piacerebbe molto pensare a un'ipotesi così raffinata e così elegante come il depistaggio, quando in realtà sto perseguendo un'altra strada. Mi piacerebbe davvero crederci. Quindi Beppe Neri, resta l'idea, che però è condivisa da una gran fetta di persone, che in realtà questa foto sbattuta in prima pagina sia un comodo tentativo di dare subito un colpevole, di dare il profilo di qualcuno che si prenda su di sé il peso di una parte delle paure di questo triste weekend. A domani.